Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ben ritrovati su Radio 24, ben ritrovati Ivana Di Martino. Ciao, buona domenica a tutti. Allora, oggi impariamo ad andare veloce, lo facciamo con un a caso. Lorenzo Perini, benvenuto. Grazie mille, grazie. A caso, per modo di dire, tu sei un ostacolista azzurro, 110 ostacoli, più veloce di così non si può. Ci proviamo. E come stai, Lorenzo? Sto bene, grazie, sto bene. Sono in preparazione per le indoor come passaggio, diciamo, ma ovviamente l'obiettivo sono le outdoor, è obiettivo a lungo termine e... possiamo azzardare il discorso Tokyo 2020, dai. Questo infatti è l'anno bisestile, è sempre l'anno dell'Olimpiade. E l'ostacolista cosa fa in questo periodo dell'anno? L'ostacolista cosa fa? Allora, l'ostacolista barra velocista, sì, dobbiamo dirlo, perché sì, non faccio 400 ostacoli, non sono così folle, non me ne vogliono i miei colleghi 400 ostacolisti, si prepara su tutti i piani, sul piano della forza, sul piano alimentare, sul piano della velocità e della tecnica. Sono tante cose da mettere all'interno di questa specialità, però devo dire che è in parte divertente, in parte abbastanza faticoso sicuramente, però stiamo lavorando bene, a parte qualche acciacco che purtroppo fa parte del percorso, ma stiamo lavorando tanto e bene secondo me. Ma tu hai iniziato subito con gli ostacoli o prima facevi altro? Prima di atletica facevo calcio da piccolino, poi abbiamo scoperto che non era proprio il mio forte il mondo del calcio, quindi sono passato all'atletica e anche lì non era il mio forte all'inizio in realtà, quindi io provavo tutte le specialità e in nessuna riuscivo a neanche eccellere, proprio arrivavo spesso ultimo, anche a un certo punto i miei genitori stavano chiedendo ma non è che ho sbagliato sport ancora, perché ho provato anche basket un giorno, tennis, niente. A un certo punto mi ricorderò sempre quell'allenamento particolare dove qualcosa è cambiato, era tanto che non facevo ostacoli. Parliamo, quanti anni avevi? Ero in terza media, seconda media più o meno. Piccolino. Sì, ancora abbastanza piccolo. Terza media, dai. E in quel momento stavo preparando gli ostacoli dopo tanto tempo che non li facevo. A un certo punto, dal nulla, mi sono venuti tre passi in mezzo, perché tra un ostacolo e l'altro in velocità bisogna fare tre passi. Finalmente ho capito. Esatto. Ho detto, all'inizio ora non avevo capito, faceva all'indietro qualcosa. Oppure era cambiato effettivamente qualcosa nel mio corpo, involontariamente ovviamente. Al che spesso si dice che non siamo noi a scegliere la specialità, ma è la specialità a scegliere te. Quindi una sorta di filosofeggiamo, se possiamo, però a quel punto lì mi sono reso conto che qualcosa era cambiato. E infatti da quel momento in poi le gare sono risultate sempre più semplici da affrontare. Al che ho dovuto cogliere la palla al balzo, ovviamente. E da lì, piano piano, con allenamenti, ancora avevo la testa un po' tra le nuvole, ero piccolo, perdonatemi. Però devo dire che qualcosa è cambiato, è iniziata la scalata, tra virgolette, verso il professionismo. Sì, sì, sì. Adesso tu fai 110 ostacoli, c'è un po' di genetica anche in questo, devo dirlo, no? Perché tuo padre era un... Assolutamente. Mio padre era un velocista, è stato anche ostacolista campione italiano allievi e dopodiché è passato ai 200 metri a velocità pura e è stato in staffetta anche ai mondiali militari dove hanno vinto. Quindi ho un po' di sangue di atleta. Anche mia madre ha fatto atletica, devo dire. Mio padre, diciamo, era più specializzato, ecco, ha ottenuto risultati particolari, sicuramente degni di nota. Quindi sì, la componente genetica c'è. Cioè. Oltre al velocista, cosa fai di bello nella vita? Oltre al velocista faccio lo studente, per ora, ancora per poco, si spera. Sono al sesto anno di odontoiatria e protesi dentaria all'Università di San Raffaele di Milano. Quindi anche un'università impegnativa, insomma. Riesci a conciliare tutte e due? Diciamo lunga, sì. Possiamo dire che c'è tanto da studiare. Per fortuna è proprio solo da studiare, da imparare la manualità, la chirurgia, eccetera. E questo mi ha permesso, di andando avanti con gli anni, di organizzarmi anche grazie all'università. Comunque devo dire che mi ha aiutato tanto, mi ha permesso di poter gestire entrambe le cose senza farmi mancare mai i giorni di tirocinio eccetera, semplicemente spostandoli. Giustamente i pazienti vengono prima di tutto, ci mancherebbe altro, però devo dire che mi hanno dato una grossa mano. Bisogna incastrare un po' tutto, diciamo, no? Assolutamente. Impari un po' quello, la tecnica di... Certo. Non male però dire, cosa fai? Faccio il velocista. Sì. E da velocista tu sei stato prima di Natale a Formia, non in vacanza però. No, non in vacanza, per cosa quanto si fa, ci sia il mare. A Formia si fanno i raduni con la nazionale, ci si riunisce insieme ai tecnici appunto della nazionale italiana e si fa un po' il punto della situazione attraverso allenamenti, ci si allena comunque in un ambiente più caldo letteralmente e anche più accogliente magari di quello che non può essere Milano per alcuni aspetti, soprattutto il meteo. Mm-mm. Ovviamente lì si arriva a Formia con 15-16 gradi, sì, che aiutano molto dal punto di vista fisico soprattutto, e ci si dedica anche mentalmente ovviamente all'allenamento. Mm. Si aiuta il corpo ovviamente attraverso la mente, mens sana in corpore sano, non è un caso, a attivarsi, a approfittare della situazione, delle circostanze per poter ottenere risultati poi migliori, sia in allenamento ovviamente, quindi entrando nella fase di scarico, possiamo definirla, sia dal punto di vista della gara, perché dopo i raduni di Formia di solito ci si sente belli, belli più impatti. Poi immagino che la cosa bella è che incontri anche i tuoi avversari, no, italiani, certo. E quindi c'è il modo di confrontarsi, no, di stare assieme. Sì, che sì. Va bene l'amicizia, dici, però alla fine ti guardo. Allora, l'amicizia è imprescindibile in questo, ovviamente, però in gara non siamo vale nessuno. Tutto, vale tutto. Lorenzo, com'è andato l'anno che è passato, 2019? Ma posso darmi un voto, magari, così riassumo. Da 1 a 10, vai. Allora, di 1 a 10 io mi sono dato, l'ho detto a me stesso, mi sono dato un 7/7.5. Ho fatto il personale, ho partecipato a meeting internazionali a cui non avevo partecipato prima, ottenendo anche dei buoni risultati con il ma finale, no, di cui abbiamo parlato prima, che è il mondiale di Doha, dove nonostante io mi fossi preparato veramente con tutto me stesso, sono dedicato completamente tutta l'estate per poter arrivare a quell'appuntamento al massimo della mia condizione, ma non sono riuscito a esprimermi al livello che volevo, fondamentalmente. A concretizzare tutta quella preparazione. No? Esattamente. È stato un peccato perché avevo passato l'estate non soltanto fisicamente, ma proprio mentalmente, a dire io voglio anche riscattarmi dai mondiali universitari, dove sono arrivato quarto per un centesimo, dove nonostante avessi fatto il minimo, la qualificazione per poter partecipare ai mondiali, sono arrivato quarto arrivare quarto per un centesimo è brutto, onestamente, è proprio brutto, ma una terribile sensazione, volevo riscattarmi, anche perché poi dopo l'universiadi ho avuto un altro piccolo infortunio, per fortuna nulla di grave, ma mi ha tenuto fermo nel periodo di forma smagliante per 2 settimane, e lì mi è costato caro, quindi ho voluto recuperare, ma non sono riuscito. Vabbè, insomma, adesso quest'anno ci saranno le Olimpiadi, dai. Per andare alle Olimpiadi, cioè, il minimo è 13.32, tu hai fatto 13.46 nel 2019. Precisamente. Però ci sono anche altri parametri per partecipare alle Olimpiadi. Sì, per fortuna, perché il minimo non è impossibile, nulla è impossibile in atletica, ma è molto proibitivo, è veramente proibitivo, quindi non nego di voler provare a farlo, ovviamente, ripeto, nulla è impossibile, però confido molto nel ranking. È un metodo di valutazione nuovo, un metodo di qualificazione nuovo che abbiamo nell'atletica, che è la media delle 5 gare migliori nel posto giusto, fondamentalmente, nel momento giusto. Ci sono varie tipologie di gare, eccetera. Quindi questa media, lungo l'anno corrente, porterà poi alla qualifica nei primi 40, si spera, al mondo. Questo darà la possibilità di entrare all'interno della qualifica per le Olimpiadi. E prima di Tokyo, invece, dicevi, ci sono gli indoor? Prima di Tokyo ci sono delle indoor che quest'anno considero un po' di passaggio. Avendo eseguito fasi di carico e di scarico per 3 volte nel 2019, appunto anche a causa dei mondiali di Doha, ho voluto un attimo rallentare con la preparazione, allungando la fase di carico durante l'inverno, in modo tale da arrivare alle indoor ancora in carico, ovviamente affrontandole, cercando di affrontare al massimo delle mie possibilità in quel momento, ma così facendo poi, appena entro nella fase diciamo estiva, o meglio della parte di primavera, inizio a scaricare senza dover continuare carico. Il corpo purtroppo soffre, non sono super, quindi ne risente, l'ho sentito. E le gare indoor invece sono 60 metri, no? Non sono più 110? Esatto, sì. E cosa cambia anche nell'approccio della gara? Cambia, effettivamente sì, è una bella domanda, perché per quanto uno dice, è metà gara, cosa potrebbe cambiare? Ci sono sempre ostacoli, qualche ostacolo in meno. Più facile. In realtà dipende, perché ci sono coloro che si definiscono 110isti, cioè quelli che preferiscono stare sui 110, e coloro che si definiscono i 60isti, quindi anche dal punto di vista proprio della velocità, che preferiscono stare nelle gare indoor. Io 110isti, io 400. No, in realtà dipende molto dall'approccio che si ha nella gara, anche mentale, ribadisco questo concetto, perché i 60 ostacoli sono un'esplosione. E finiscono subito. Esatto. Quanto si fa nei 60 metri? Si fanno 7 secondi, si spera, è il meno possibile. Il meno possibile. Esatto, uno schiocco di vita. Infatti. Però cambia molto, perché è una gara che dura veramente poco, non riesci neanche a godertela, e succede di tutto in quel momento, e è molto difficile anche ragionare durante la gara, per quanto sia ovviamente complicato anche durante i 110, ovviamente, però nei 110 quasi te la godi di più. No. È una percezione di, insomma, di quello che sta accadendo, esatto, quantomeno. Esatto, esatto. Invece nei 60 immagino che tu non riesca neanche a guardare. C'è lo sparo e l'arrivo. Ma parliamo un po' di ostacoli, perché io sono sempre curiosa di questa cosa. Ma cioè, tu conti i passi mentre fai la gara? Cioè, immagino che tu sei preparato tantissimo, no, per una gara importante, e come fai a gestire? Cioè, è solo tecnica alla fine, ovvio, anche velocità ci mancherebbe, però c'è tantissima tecnica. Quante volte ripeti gli ostacoli? Tante. Oggettivamente col mio coach poi quasi tutti i giorni eseguiamo lavori di tecnica, analitica. Poi c'è il giorno, ci sarà il giorno della velocità pura con ostacoli, quindi blocchi e correre più forte che si può. Però praticamente sempre, perché comunque il cervello, le unità motorie hanno bisogno di apprendere il movimento. Quindi è importantissimo definire una componente di forza, di velocità, di base, quello è imprescindibile. Ma la parte dell'ostacolo è unica nel suo genere, quindi bisogna sempre mettere insieme i vari tasselli per ottenere quella che dovrebbe essere la tecnica migliore, anche se la tecnica migliore ancora non esiste in realtà, è molto soggettiva, perché certo, tanti ostacolisti molto veloci hanno una tecnica che tu guardi e dici, ma come fanno a saltare l'ostacolo? Però e magari vanno anche veloce, e magari vanno molto sicuramente hanno una velocità di base veramente notevole, ma ha ragione chi vince, indubbiamente. Quindi abbiamo dei modelli di base, per esempio, di tecnica, però è ancora molto particolare. Quindi alla fine è tutto automatico. È molto automatizzato il movimento, sì, certo. Sì. All'inizio magari quando uno si approccia all'ostacolismo, che è già abbastanza di nicchia come specialità, deve sapere eseguire il passaggio sugli ostacolini più bassi, sempre, assolutamente. Dopodiché piano piano ci si può spostare gli ostacoli sempre più alti, che sono 5-6 centimetri per quelli assoluti, appunto. Però è curioso perché proprio bisogna ripeterli costantemente, essendo proprio una specialità molto molto particolare, esistono vari esercizi, spesso anche molto inventati, un po' da autodidatta, che ti possono portare poi al passaggio più veloce possibile, ecco, mettiamo questo dogma, bisogna passare l'ostacolo con più velocità possibile. E i passi sono sempre tre, tra un ostacolo e l'altro. Sì, sì, sì, sempre tre passi, assolutamente. Perché prima, Ivana, facciamo riferimento a questo, perché quando sentiamo parlare chi fa i 400 metri ostacoli, a un certo punto i passi aumentano sul finale, perché insomma la fatica si fa sentire. In qualche porca modo. Miseria. Lì non c'è lo spazio proprio, non sono meno di 10 metri. No? Sono 9 metri e 14, quindi tre passi per forza. Ah, ok. Sì. Non ci sono alternative. E invece tutta questa preparazione durante la settimana, come è organizzata la tua settimana di allenamento? Quanti allenamenti fai? Allora, io faccio circa 8-9 allenamenti a settimana, più o meno, doppio tendenzialmente la forza, i lavori di forza soprattutto quest'anno, ci stiamo dedicando molto anche a quell'aspetto, a costruire una bella muscolatura, per essere molto semplici, però è indubbio che il muscolo più potente ti permette, ovviamente allenato in maniera corretta, ti permette di andare più veloce, chiaro, in questo caso. Quindi in uno sforzo anaerobico come questo è fondamentale la costruzione, l'elaborazione della forza nella maniera più efficace possibile. E durante la settimana io mi alleno tutti i giorni, praticamente tranne la domenica tendenzialmente, il pomeriggio, spesso ci alleniamo nel pomeriggio, a meno che magari non decidiamo di cambiare per esigenze personali, assolutamente. Il coach, devo dire, che è molto flessibile da questo punto di vista. Non durante l'allenamento, magari prima per l'orario, sì, ma durante l'allenamento niente, no. Bisogna essere severissimo. E Lorenzo, a cosa rinunci per l'atletica? A cosa rinuncio per l'atletica? Allora, ho rinunciato magari a un po' di vita sociale in passato. Mi ero prefissato di continuare l'università cercando di rimanere al pari il più possibile e di continuare l'atletica nel migliore dei modi, quindi ho rinunciato a mettere un po' di vita sociale. Sì. Adesso devo dire che essendo arrivato all'ultimo anno di università e con l'aeronautica anche mi dà una mano, essendo parte della loro squadra, comunque un po' più di tempo anche da dedicare all'atletica, riesco a convogliare un po' tutto, anche la vita sociale, cioè, finalmente. Quindi vale la pena, insomma, alla fine. Tutti assolutamente, assolutamente. Ma come in atletica, come in tantissimi altri sport, consiglierò sempre a tutti di fare sport in qualsiasi salsa. Ma te non piacerebbe fare anche distanze un po' più lunghe? Hai mai provato? Assolutamente sì, no. Ho provato e assolutamente no a fare le distanze lunghe. E ve lo dico perché proprio perché ho provato e io stimo tantissimo chi fa distanze lunghe. Per me distanze lunghe sono già i 400 ostacoli, io ve lo dico. Sono già i 400 ostacoli. Parlavamo fuori onda del campaggio della settimana scorsa. Ecco, già quello poi, assolutamente. Quindi massima stima per chi fa questo tipo di gare, perché io personalmente non riuscirei. Lorenzo, diciamo che tu la domenica ti riposi, cosa fai? Oggi è domenica? Non so, mi riposo, leggo un po', mi piace tanto leggere, per esempio, oppure mi vedo con la mia ragazza, Luminosa Bogliolo, che anche lei è ostacolista della nazionale. Oppure studio, magari mi organizzo la settimana, per esempio, vedo gli allenamenti, avendo un coach, Giorgio Ripamonti, che è molto molto pragmatico dal punto di vista dell'allenamento, ci manda sempre il programma, lo analizziamo insieme, quindi è molto bello anche questo scambio di opinioni, possiamo definire, ovviamente ha sempre ragione il coach, in positivo chiaramente, però durante una giornata libera è difficile non pensare poi alla settimana che viene dal punto di vista atletico. Dov'è che ti alleni di solito? Mi alleno a Brugherio. Una settimana al mese, grazie ai raduni che ci ha offerto la FIDAL, cioè la Federazione di Atletica Leggera, andiamo a Formia, come ho detto prima, e ogni tanto ritorno a Saronno, la mia città natale, dove mi alleno, magari approfitto anche della presenza di una indoor e della pista nuova, e mi alleno lì, magari. Soprattutto facendo... in questo periodo dell'anno, insomma. Esattamente, è molto molto utile. Ovviamente il limite sono i 60 metri, quando magari uno deve fare una prova un po' più lunga è costretto ad andare fuori, ma già avere una indoor... è un gran lusso, veramente un gran lusso. E con la fidanzata riuscite a parlare, a non parlare di ostacoli? Sì, devo dire di sì, cerchiamo di estraniarci un po' da questo mondo, perché poi durante le gare alla fine si parla sempre di quello. Poi uno va a raduno, è solo atletica, uno quindi che ogni noia. Tanto dopo anni e anni parliamo d'altro. Però no, riusciamo a estraniarci assolutamente. Grazie mille a Lorenzo Perini. Grazie a voi. A presto. E grazie a Gianmarco Ferronato in regia. Noi per oggi ci fermiamo qui, vi ricordiamo che l'appuntamento con Personal Best è ogni domenica su Radio 24 6:30 e 16:15, poi quando volete ci trovate in podcast. Buona domenica. Buona domenica. Personal Best. Tutte le puntate sono disponibili su radio24.it.